Letture di Radio 24. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ridisegna la mappa degli uffici giudiziari in Italia con la riforma che lei stessa definisce epocale. Meno tribunali, che passano da 165 a 128, ma secondo il guardasigilli, più robusti, più efficienti, meglio distribuiti. C'è di più. La Severino ridisegna la mappa della giustizia con la soppressione di 38 procure, di tutte le 220 sezioni distaccate e di circa l'80% degli uffici dei giudici di pace. Non ha più senso mantenere una miriade di microscopiche sedi giudiziarie, chiose il guardasigilli, a scapito dell'efficienza e dell'economia di scala. La riduzione degli uffici giudiziari permetterà un risparmio di circa 51 milioni di euro in 3 anni. Ha ragione questa volta Paola Severino. Il suo decreto delegato sul riordino delle circoscrizioni giudiziarie non è un provvedimento di tagli di spesa, ma è una riforma. Magari non epocale, come il ministro ha esclamato, trascinata dall'entusiasmo, ma un intervento organico necessario e di buon senso, questo sicuramente sì. Del resto, nemmeno tecnicamente il provvedimento della Severino rientra nel maxi decreto dei tagli, chiamato Spending Review. E infatti le norme confezionate dal guardasigilli costituiscono attuazione di una delega parlamentare già approvata e che pertanto non deve più tornare nelle aule di Camera e Senato. Si tratta di un autonomo decreto legislativo di competenza esclusiva del governo, che deve raccogliere soltanto i pareri, niente affatto vincolanti, delle competenti commissioni. E qui la proposta Severino mostra i suoi principali meriti. Per limitata che sia e dettata da banale buonsenso, nessun governo politico avrebbe mai potuto attuarla. La polverizzazione delle sedi giudiziarie, che vede sezioni di tribunale persino in centri di pochissime anime, è un retaggio anacronistico che chiedeva di essere inciso da anni. E però mettervi mano innesca il più bieco municipalismo, dove ogni onorevole, ogni sottosegretario e ogni ministro dei classici governi politici non può che avere il suo micro ufficio da difendere, per salvaguardare non già il servizio per i cittadini, bensì le comodità acquisite da coriacee e clientele politiche locali. Le stesse che ora levano gli scudi in via aprioristica e pregiudiziale, come trasparentemente dichiara per il PDL l'onorevole Pecorella, che critica il provvedimento perché potrebbe incidere sugli interessi di avvocati o sindaci dei relativi comuni. In realtà è bene ricordare che gli avvocati non sono i destinatari del servizio giustizia. Sono insieme qualcosa di molto di più e di diverso. Sono attori del servizio che essi stessi concorrono a derogare. Ma allora l'organizzazione del sistema non deve guardare ai loro minori o maggiori disagi come non dovrebbe guardare alle esigenze di carriera di giudici e funzionari. Deve badare esclusivamente a un miglioramento del servizio quanto mai necessario. E il servizio potrà avere solo giovamento dal superamento dell'incredibile polverizzazione esistente che ha portato all'istituzione di sedi di tribunali anche a Canicattì, dove pochi giudici devono occuparsi di tutto, fornendo a quei cittadini necessariamente una giustizia di minor pregio e competenza. Per non dire della necessità di coprire più sedi con quotidiani trasferimenti, perdendo tempo che viene sottratto a processi e sentenze. Come pure è assai sbagliata l'idea che il giudice debba essere tanto prossimo al territorio. Anzi, è molto più vero il contrario. Un ragionevole distacco tra giudice e ufficio giudiziario, da fatti e persone, non può che essere un elemento di rafforzamento della terzietà. Mentre la facilità di accesso per i cittadini al servizio andrebbe garantita non già con il tribunale sotto casa, ma con il rafforzamento del processo telematico e con l'abbattimento delle tasse aggiuntive, che hanno raggiunto cifre intollerabili. Ecco, ministro Severino, destinare a tal fine parte dei risparmi derivanti dall'accorpamento degli uffici qualificherebbe ulteriormente la riforma nel senso dell'attenzione agli utenti. Per tutte queste ragioni va accolta comunque con favore l'impostazione del provvedimento, potendosi al più discutere di dettagli per evitare di lasciare in mezzo al guado i processi in corso. Per evitare, insomma, un altro pasticcio esodati che questa volta riguarderebbe i milioni di cittadini che attendono risposta dai tribunali. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gianluigi Pellegrino, Meno uffici, più giustizia, da Repubblica di lunedì 9 luglio.